Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ehi, presente, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. Ah, Puccio, vieni qua, dai, che stavamo a fermare, dai. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? Me. Oggi me? No. No. Signora! C'ho le roba fresca, ciccia fresca, sì. A ciccia, come quella che tiene dopo puzzetto. E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma che? Ah no? Ma che? Ah? Galla, guardavamo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma Soch, ma che è stata stronzata? Sochi che? OGM Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. No, idioti, idioti, ma è Fox Media. Basta con tutto sto casino. Ma la gente quando vede dormire che si deve svegliare presto per andare a vedere i cantieri. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti a questo nuovo episodio di OGM Soch Media Edition Corporation in the Night to Wed Lane the Line. Come Marco Gualdi. Ciao a tutti, è un vero piacere essere qui. Parla un po' più sera. Forte, sostieni un po' di più la voce per cortesia. Sei basso. Non è colpa mia. Ecco, va bene. Dicevo, buonasera. È un grande onore per me presenziare in questa puntata di lunedì numero 17. Che bello essere qui, non vedo l'ora di iniziare la puntata. Sai che ci sono andato vicino comunque. A fare cosa? Non lo so, al numero della puntata. Walter Sbano. Quindi dicevamo... Il garante contro ChatGPT. Il garante contro Puccio. Il garante contro Puccio. Ecco, salutiamo Puccio perché oggi non ci volevo venire. È vero. Carmine Puccio Console. Ci sono. Ci sei o ci vai? Più che altro ci sono. Perché okay. A farci puoi smettere, a esserci no. Allora ragazzi, io ho degli annunci importantissimi. Bisogna fare degli annunci talmente importanterrimi che... Che mettiamo la nostra base tradizionale, insomma, la fanfara, bella la fanfara. E innanzitutto ricordatevi di cercare lo speciale che abbiamo fatto l'altra settimana con Walter Sbano, Walter Vannini, Carmine Puccio Console e io che facevo insomma da conduttore e che probabilmente infileremo anche in altri... Carlo Santagostino, hai ragione. Ah, che poi infileremo anche... Sono scoppiate guerre per molto meno. Esatto, hai ragione. Infileremo in altri feed anche. Però la notizia più importante, ragazzi, attenzione perché qui siamo proprio a rischio merdoni, io ve lo dico, cioè, ho questa sensazione e di solito io non ce le ho così perché sapete io non ho un grosso senso critico, soprattutto se amo le cose, no, Puccio non ha senso critico in senso generale, io non ce l'ho se amo le cose, quindi giovedì 27 alle ore 21:30, giovedì 27, quindi il prossimo giovedì, non questo che viene, speciale Star Trek Picard. Finisce un'altra volta, sono già triste. E stavolta finisce brutto. Finisce. Chi lo sa, però sono muoiono tutti. No. Diventano tutti. Non lo posso dire. Allora, non ne parliamo, non diciamo niente. Però il rischio merdone, ragazzi, stavolta è. elevatissimo, però, veramente. Cioè... Allora, le possibilità sono due: o il capolavoro o il merdone. O la merdone, esatto, sì. E io... Beh, no, senti, c'è anche la possibilità che tipo ti lasciano un cliffhanger e ti tirano il finale. No, io voglio sperare di no, perché un'altra serie. Ricordiamo che Patrick Stewart voleva fare solo una stagione di questa cosa, poi ci sono preso gusto, ne ha fatte due, e poi mentre che stavano lì dicevano vabbè, ma dai, ma fammi proprio la reunion, che era proprio la cosa che lui non avrebbe mai voluto fare all'inizio. E poi vabbè, comunque dai, vediamo poi come va. Dai, dai, dai, se riusciamo a trattenere le lacrime. Credo di aver capito che in realtà i due intere stagioni sono state fatte semplicemente per convincere Patrick Stewart a fare sta cazzo di reunion. Esatto, esatto. Perché lui non ne voleva sapere. Poi alla fine gli hanno infilato una cosa. No, perché tu lo sai che la prima stagione finisce con lui muore, no? Esatto. Però mentre che stavano lì, alla fine lui sarà un po' convinto, dice vabbè, dai, però. Mo sta cosa che sono morto, un po' mi dispiace. Vabbè, immagino, sei improvvisamente vivo. Me lo immagino come Martelloni. Sono andato in coma, dai! Esatto, bravo, esatto, così, esatto, così. Esatto. No, però meno male che ci ho ripensato, perché se fosse finita così con una... Quello che moriva. Con quella sceneggiatura, con quella stagione ci saremmo rimasti. Allora, la stagione non era un granché, anche se a me... Ho capito il senso della storia, a me è piaciuta la storia, comunque mi è piaciuta. Diciamo che potevano metterci in contorno tutto diverso. Potevano lavorarla meglio. Potevano lavorarla meglio, però il fatto che moriva lui... Dando la pace anche a Data, secondo me sarebbe stato un finale strapoetico. Sì, sì, quello, ma quello lo è stato comunque. Anche se poi, vabbè. Comunque, non stiamo parlando di questo, perché questa è OGM Social Media Edition, la trasmissione dove quando abbiamo delle cose da dire relative ai social media le diciamo, altrimenti ma non stasera. Parliamo dei cazzi nostri, perché ad esempio... Vabbè, ma scusate, una serie TV può essere definita social se la vedi insieme agli altri, tipo fai group watch. Sì, quindi... Allora i social esistono dalla notte dei tempi, cioè, e la SIAE voleva i sordi già dall'epoca, esatto. Aveva nomi diversi, tipo Santa Inquisizione. Cioè, tu ci andavi al cinema da ragazzino con l'amichi tui? Vabbè, tu non ci hai mai avuto amici, esatto, guardi, quindi non ti ho chiedo, te lo dico a sbano. Beh, sì. Certo, e quindi era social. Certo, era social, parlavi durante il film. Che no, durante no, dai, durante non si fa. Durante il film fumavi anche, volendo. E quello si faceva. Ricordo sempre la famosa diapositiva con la scritta vietato fumare, con tutto il fumo che saliva sopra. Ma qual è il proiettore? Certo, il proiettore però doveva intercettare qualche cosa, insomma. Comunque per parlare di serie, no? anche un po' di serie? Senti la tristezza, è ora che diciamo che dopo la nuvola di Lost, il fumo misterioso di Lost ha colpito una seconda volta. Dopo Gusella si è portato via anche il nostro Francesco. Eh sì. Ennesima vittima. Però Francesco è in una ridondanza quantistica, perché lui intanto si sente e poi sparisce. Capito? Quindi, Gusella di Schrödinger, dice. Non so se vi ricordate la puntata di Star Trek Enterprise. Oddio, Enterprise, io pensavo TOS, quando Kirk rimane imprigionato nella Defiant e quindi intanto compare, scompare. No, però è una cosa simile, perché in realtà su Star Trek Enterprise c'era la puntata di quell'ingegnere che inganna tutti e porta praticamente l'Enterprise in un punto dello spazio, perché lui deve fare una modifica per il teletrasporto per far ritornare il figlio che si era perso. Non so se voi ricordate, c'era questo qua che era tipo un fantasma praticamente. Ah vabbè, ma senza, se avete visto Strange New World, cioè la sottotrama del medico di bordo che... Sì, è basata. Quella era voluta, esatto. Cioè, quella era la bambina, che poi voglio dire, cioè, nel senso, tra l'altro, quella cosa lì sputtana un po' Scotti, perché insomma noi sta cosa se l'era inventata Scotti nelle storie che sappiamo noi. Vabbè, comunque basta parlare di queste cose, ritorniamo alla nostra base, quella tradizionale, e vabbè, quindi annuncio facciamo questo speciale di Star Trek Picard. Invece Gualdi ragazzi è in cerca di un modem, quindi, e anche di una macchina volendo, però più di un modem, diciamo che è più abbordabile il modem, quindi se avete un modem che costa tanto ma per lui lo potete dare a poco, lui è contento. No, ma anche una macchina che costa tanto ma lui la potete dare a poco, quel caso è anche meglio quello, però. Se noi avessimo capito per tempo che avremmo potuto diventare degli influencer, forse questa cosa sarebbe successa. Perché se tu ci pensi, il grande lavoro che noi facemmo in dietrologia videoludica su YouTube Avrebbe potuto portare qualcosa. Potremmo continuare a farlo. Sì, ormai siamo vecchi, che cazzo c'è? Ormai direttamente su TikTok, solo che lì, ragazzi, non si monetizza. Cioè, allora, sì, si monetizza pure su TikTok. C'è un sacco di gente. Però ti zottano l'account con una certa simboltura, ho capito. C'è un sacco di gente che la nostra idea è che potrebbe essere influenzata da noi, che ne so, per pannoloni. Ah, quel senso. Non pannolini, dici, per non bambini, pannoloni proprio per le medicine per la pressione. Quale è il miglior farmaco? Non diciamo originale, l'unboxing delle cose. Cioè, sono i farmaci quelli non di marca, come si chiamano? I farmaci. Sì, ho capito. I generici. Esatto. Qual è il miglior? Che poi, ragazzi, il problema generico. Del farmaco generico è un motivo per litigare con i vecchi. Se ci pensate, perché praticamente il vecchio non ci crede che è lo stesso farmaco, è lo stesso principio attivo, perché non ci vuole credere. C'è qualche cosa, perché ma io quando, perché pure mia madre che c'ha, perché la scatola è diversa, il nome è diverso, non può essere la stessa cosa, giusto? No, guarda che è uguale, ma no, non è uguale, allora, perché ragazzi, questo mi fa effetto e l'altro no. A parte chiaramente l'effetto psicologico, il discorso è che tutto lo stigma parte da questa, tutto non che? Lo stigma, no, cominciamo, scusa, allora, cominciamo a utilizzare questi inglesismi. Puccio, tu che c'hai persone autorevoli in famiglia, il punto è che molti si sono convinti che gli la differenza tipica tra un farmaco equivalente e l'originale sono gli eccipienti, che possono essere diversi. Ora la domanda è: ma cazzarola, ma perché? Perché la gente deve pensare che gli eccipienti in un farmaco generico sono scadenti e sono potenzialmente più allergocosidi, capito? Intanto salutiamo in chat Michela, che dice che forse riesce a leggere 20 minuti. Ma perché la saluti in chat? Sta qua. State là. Ciao Michele! Avete sentito? Vi saluta. Posso? Questa è Radio Verità. Radio Già Casanoscia. Stavo dicendo, no, c'è una parte di cazzata colossale e una parte che parliamone, nel senso che alcuni medicinali sì, condividono la molecola con il generico, per esempio il paracetamolo, però diciamo alcuni composti di marca a base di paracetamolo hanno, chiamiamoli catalizzatori, ma improprio, qualcosa che fa fare effetto prima o meglio alla molecola principale. Di solito questi elementi sono segreto o sono sotto brevetto e quindi non possono essere usati nella preparazione del generico, ma stiamo parlando di una categoria molto ristretta di farmaci che c'ha questo problema, molto molto ristretta. Ok, grazie. Adesso medicina di interesse. No, cioè, ma la prostata. Esatto. Andiamo a parlare. No, perché tipo c'è stato un momento questa settimana in cui Walter stava dicendo in pubblico quanto aveva pagato la prostata, un farmaco, e a me è partito. Come cazzo ha fatto a pagarlo così tanto? A Walter chi, tu? Io? No, beh, tutto nasce dal fatto che in farmacia ho comprato il Flumicil, però mi hanno dato la confezione da 150 compresse, ma erano 40, solo che quando sono andato a pagare mi hanno chiesto quasi 20 euro, io lì per lì ho visto i santini passare, però senza nemmeno pensarci, ho pagato e me ne sono andato, poi ho detto, ma come cazzo? Effettivamente ci sarebbero confezioni più piccole, in realtà, no, scusa, e ci sarebbe anche il generico che io non ho avuto. Raccontiamola bene, tu hai pagato e te ne sei andato, ma in realtà un eco di te, esatto, è rimasta là davanti, se lo guardate diceva porco, esatto, i vetri il della fantasma farmacia della forza ancora, come se tu dice, passi davanti alla farmacia Cucchiaroni i vetri fanno ancora e c'è il fantasma di forza, che il fantasma di bestemmia, esatto, non è tanto di forza, fantasma ma di bestemmia, sì, esatto, che sta lì e imprega. Io gli ho suggerito a torna indietro e fatti fare un buono, ma l'avevo aperto, sai che buono che ci fai col buono, sì, insomma, esatto. secondo me è il buono, come diceva Walter, tuo ficchi al culo, ma non funziona questa cosa, scusa, Walter, non funziona questa. Non so come è programmato Beep. Aspetta magari tu non lo senti, ma c'è, oppure c'è un rutto, ma guardi, ma va un po'. Ecco, funziona. Oh, adesso c'è veramente il trade union tra OGM e le quanti anni? Sera. Cioè, io dopo 3 anni l'ho saputo che c'era il beep. Cosa, esatto. Vabbè, ma è possibile sostituire il beep con un rutto? Ma quell'altra cosa, quell'altra opzione, trash voice, che a che serve? Che significa? Per fare il trash chat. Non l'ho mai provata, quindi non lo so. Okay. Probabilmente voce la distorce la canzone. Non lo so, sarà una volta di questo, lo proviamo. Voce di merda. Voce di merda. Esatto, vabbè, e quindi niente, quindi paracetamolo l'abbiamo detto, i farmaci che fanno litigare i vecchi, l'abbiamo detto. Io perché poi questa cosa l'ho vissuta proprio perché a mio padre gli davano sti farmaci e lui non si capacitava, era un complotto, capito? Cioè stavano a dare i farmaci per farlo ammazzare. C'è lo step successivo, Pizzi, cioè quando cambiano la confezione del farmaco, lì proprio mi hai portato un farmaco letale, quando cambiano la confezione del farmaco standard, no, dello stesso o quello, farmaco che tu magari hai comprato il giorno prima, che a tuo cioè padre tu l'aspirina gli hanno cambiato la grafica, no, l'aspirina c'è scritto aspirina, ma il farmaco per la pressione, per dire, il cardicazzo, il famoso cardicazzo, il cardura, che invece deve avere la confezione rossa, a un certo punto c'è la bianca, no quello non lo fanno, raramente, ma lo fanno perché ammodernano la però grafica, non che gli cambi proprio, cioè ti posso dire che lo fanno. Vabbè ragazzi, scusate, ma io dentro case con degli anziani ho visto delle tragedie, pure quando la Barilla ha cambiato il pacco della pasta perché non era più Barilla, ma che cos'è questa? Esatto. È la pasta, no, non è questa. Ma voi vi ricordate che il mulino bianco faceva parte della Barilla una volta? Tuttora? No? Cioè, però prima era proprio scritto mulino bianco, poi a un certo punto è sparita la scritta, è sparita la scritta, e quindi io mi ricordo adesso, ragazzi, questa è fighissima, quando uscì Goldrake sulla Rai, lo ricordate? Che tra l'altro teoria doveva uscire prima Mazinga e tutto, vabbè, quanto, sono vabbè, usciti tutti al contrario, dopo un po' di tempo è uscito Gig Robo su Mediaset, e che si diceva, quelli della Mediaset hanno copiato quelli perché li facevano loro, esatto, il computer, ricordiamo che era sempre il computer che disegnava, quindi nel senso che Gig Robo era la versione tarocca dell'originale, che no, era, ma in realtà la cosa ancora più evidente fu con Mazinga, perché venne trasmesso prima il grande Mazinga in Italia e solo successivamente dalla Rai Mazinga Z in risposta, perché che faceva schifo come disegni, ma vabbè, era il primo di era il più vecchio di tutti, per cui anche se insomma ricordiamo, Gualdi, abbiamo fatto la live, proprio il più brutto di tutti come disegni, era Astro Ganga. Vabbè, allora Tetsu G28, no? No, so. Quello forse non quello col naso, vabbè, roba ancora più vecchia di anche era anche in bianco e nero. E secondo me il robot più brutto comunque era il Gotham. Quindi, vabbè, Tetsu G28 si pilotava con la valigetta. Sì, esatto. Quella era la basket, l'Atomic Basket del presidente della Repubblica degli Stati Uniti. Oh, comunque, Tetsu G28 c'è una versione ammodernata che è anche abbastanza pesante. Parla di guerra, bambini soldato, traumi. Vabbè, tipico dei giapponesi. Non è che l'altro erano tanto meglio. No, perché mi hanno consigliato, te lo vuoi vedere? Io dopo tre puntate ho visto una tragedia. Ho detto, no, guardate, torno a vedere. Lo fa per te. Come dico sempre, capi le bombe umane, diciamo che peggio di così. Puccio rifugge le tragedie, fugge da rifugio. No, in realtà no, anzi guarda, anzi in famiglia sono quello che viene tacciato di dire, tu ti vedi una roba pesante tipo Sette Samurai, Tre Manifesti a Ebbing Missouri, bello, Tre Manifesti a Ebbing, Sette Samurai, perché al massimo nel caso tu ne reggono 2-3, proprio, esatto, proprio tutte e sette, quindi. Sette mogli per sette fratelli, ma scusa, sette spose proprio, ma scusa, ma i Sette Samurai è quello originale o la serie animata? Kurosawa. Ah, quello di Kurosawa, proprio, okay. No, perché c'è anche la serie animata Kurosawa è quello a forma di biscotto. Kurosawa è il generico, Kurosawa è quello originale. Kurosawa è quello al cioccolato, sì, è giusto. Mikado. E vabbè, e quindi però comunque io stavo a fare tutto questo discorso sui medicinali e non mi ricordo, cioè, perché quella era perché la devi prendere la pasticchetta per la memoria, no, era la digressione di un discorso che stavo a fare, ma poi era mai non lo so perché parlavamo da picar, siamo passati ai medicinali e ci sta poi c'era la nebbia assassina di Lost che si è preso due dei nostri sodali. Ok, perfetto. Ah, ecco, sì giusto, poi c'era giusto. la bestemmia ah, ecco da dove siamo partiti, giusto che tu sei andato lì e ti hanno dato la 150 pasticche, confezione da 40. Che sì. Poi cioè, te spacci volendo. Vabbè, senso, comunque vedi, scadono nel 2027-28. Quando sempre servire. Io pure c'ho una scorta di cardi aspirine. Cioè che non visto mai nella vita. Si sa mai, insomma. Metti che domani scoppia la guerra nucleare, almeno c'hai. No, è che in realtà io la dovrei prendere, però mi scordo di prenderla. Scusate, ragazzi, lanciamo un sondaggio. Sì, sondaggio. Vi portate quando andate in giro. Nessuno. Allora, cioè, io tipo, che ne so, vai e ti porti in tasca, insomma, okay, l'acetamolo, okay, il polase, io l'antistaminica, il Gaviscon. Vabbè, guardi io... l'antistaminchia, perché sennò, cioè, non sopravviverebbe. Okay. Io personalmente, vabbè, da un paio d'anni ormai prendo la pasticchetta per la pressione, e quindi quella la pasticchetta quella, magari se fosse un'utilità, ma no. Però no, non porto nessun farmaco con me, mai. Io, a parte quelli i salvavita che prendo, no. Però Michela si è una che si rimette. Vabbè, questa la più da donna, dice. Vabbè, anche perché c'hanno i loro motivi tecnici per aver bisogno di alcune cose. No, ma in generale, cose, capito, perché questo è alla fine, se vedi, se, cioè, io conosco gente che si porta presso una mezza farmacia dentro le valigie. Vabbè, sì, è un po' più da mediamente, un po' più un atteggiamento femminile, però ripeto, perché ci possono essere mille motivi a corollario di certi periodi del mese, quindi non si sa mai. Cioè, sta per squillare un telefono? No, non si no, sa. No. Io invece nella tasca del giubbotto ho un listerino da 4 compresse di paracetamolo, perché soffro di cervicale. Il clisteri addirittura. Il clisterino, sì, il blister. Perché soffro di cervicale e di sinusite, quindi rischio di morire, anzi tanto. Quindi usi il clisterino, non pensi più alla cervicale? Poi, funziona così. Esatto. Da quando ho scoperto che il mio riflusso è peggiorato, ho una bustina di Gaviscon. Di malo. Ah. No, ma guardi, veramente a me il mal di testa mi è passato in un secondo, da quanto mi brucia il culo. Esatto. Dovresti smettere di prendere le supposte, cioè la spina del supposto. No? Cioè, se tu sei il dolore, ce l'hai da un'altra parte, non senti quello iniziale. Quindi. Ecco, chiodo scaccia chiodo. Esatto. Ed estate mi porto dietro il polase, perché boh, non serve un cazzo. Ma, ti è mai capitato di prenderlo, di usarlo? Il polase, sì. Ah, vabbè, no. No, io no. Mi faccio anche una. Cioè, io se, no, però il polase c'è proprio un senso, perché magari c'è un calo dei sali. Mazza, però no, devo dire che anche. Ti ricordi quello che avevamo scoperto quest'estate? Che il polase era al rilascio lento, che te lo sciogli nella bottiglia dell'acqua da litro, quando vai a camminare, a fare attività sportiva, te lo bevi un sorsino alla volta. Quello. Figata. Comunque Michela dice che lei si giustifica il fatto che perché dice non si sa mai che qualcuno dovesse morire male. Esatto. Comunque, adesso ho capito, ma scusa, se tu ti trovi di fronte a uno che sta per morire male, il tuo dovere civico è aiutarlo a morire, non gli devi salvare la vita. No, farlo morire bene. No, dipende, esatto, gli devi, almeno una morfina, giusto? Comunque ragazzi, io ho finalmente ricordato perché siamo arrivati a parlare di medicine, perché tutto era, dovevamo fare l'influencer di medicine, cioè volevamo fare. Ah, è bravo, è vero, vedi. Quindi, che poi, vedi che alla fine tanti unboxing, recensioni e video sponsorizzati, perché poi chiaramente saremmo arrivati pure a arrivava la Bayern che ti diceva Bayern Monaco, la Bayern da Monaco, vabbè, Bayern Monaco, Bayern è il marchio, Bayern è di Bayern, stai a guardare perché, esatto. Comunque vabbè, la Bayern arriva e ti dice oh, dovete che fai, gli dice no, assolutamente no, spicci. Il problema è che poi devi provare tutte le medicine che guarda ti danno, mi devi fare questo video di sponsorizzazione su questa supposta, però la devi provare. E poi ovviamente come fanno tutti gli influencer, ogni tanto pure un video di sensibilizzazione, e quindi uno dei video di sensibilizzazione è questa eterna guerra tra il medicinale ufficiale e il medicinale che ovviamente quello ufficiale è buono. Perché della Bayer, non puoi poi dire. Scusa, come fanno tutti gli influencer che fanno i van lifer? No, tu fai la stessa cosa, un euro per Gualdi, invece di comprarti il camper ti ci compri la macchina. Esatto. No, non viene, no, vengono direttamente da te, perché io ho visto un sacco di influencer che gli prestano le macchine per 6 mesi addirittura, mica cazzi, cioè 6 mesi di macchina è tanta roba, muoio di. Comunque al di là di questo, insomma, del mannaggia miseria, stavo a dire una cosa, mi sono scordato anche tipo. Quello perché non avevi preso la Memo SARS, che è la famosa pasticca per la memoria. Esatto. Memo SARS. Esatto, insomma, vabbè, comunque c'è questa questione di spiegare il fatto che anche il medicinale, quello insomma, generico è ecco quello che ve lo dico, mi è rimasto in mente, proprio perché la parola d'aggancio era generico. Ma a voi è mai capitato, quando andate in farmacia con la ricetta, gli chiedete il generico al farmacista che rode il culo? No. A me sì. Allora, rode il culo no, però... Un farmacista in particolar modo, cioè, per esempio la farmacia qua, no, non facciamo nomi, no, Cucchiaroni, non facciamo nomi, quella sempre esatto, che gli trevano ancora le pareti. Cioè, per esempio, c'è un medicinale in particolare che mi dice sempre che non ce l'ha, però se insisti dopo ce l'ha, però cioè lui non ti dice vuoi questo o vuoi il generico, lui ti dà la medicina normale, poi tu dici ma io voglio il generico. E perché secondo me è una questione economica. No, perché, anche perché secondo me l'hanno messo in un posto scomodo. Dipende. Allora, aspetta, la domanda è: su quello originale, con la ricetta gialla, tu aggiungi una differenza o lo paghi? Sì. Non te lo passa la mutua per intero? Allora, a me alcuni medicinali me li passa, però alcuni medicinali. Quello che a lui non gli piace dartelo generico. Allora, me lo passa. Allora, quello generico non lo pago. È chiaro, non lo pago. Esatto. Mentre che quello ufficiale, in realtà, invece, magari 50 centesimi, un euro lo pago. Ma non è, penso sia lì allora la cosa, non lo so. Però, evidentemente, secondo me. Magari quelli... al corrente del fatto che quel generico in particolare può essere meno indicato, ma magari non te lo dice, non te lo può dire. No, per esempio, io lo vedo proprio in generale. Io ho visto con un altro farmacista di cui non faremo nomi, sempre Palli, che tanto non li conosce nessuno, esatto, so. Che alle volte storce il naso. No, ma sarebbe meglio se prendessi tipo col paracetamolo. È capitato diverse volte. Col paracetamolo consiglia di prendere quello Puccio, di lui c'ha l'insider. I farmacisti ci prendono una stecca dai non generali. Penso che il margine che hanno sia in realtà identico. Allora, in realtà la cosa che cambia tra il generico, ma a livello politico, e il farmaco di marca è che la lobby che c'è dietro, il giro degli informatori, esatto, del farmaco. Esatto. Perché comunque quelli che sono rimborsati al sistema sanitario nazionale, i soldi al farmacista tornano comunque dallo Stato, sì, e tornano. Non cambia. Esatto. Io lo vedo pure questa è una cosa che è sempre successa dal dottore. Sia quando stava a Roma che quando qua a Monterotondo, che quando tu gli dici c'hai un determinato problema. Quello ci pensa un attimo e va a aprire l'armadietto dove pure da caso c'è proprio il medicinale che fa il caso per te. No, vabbè, sì, no, vabbè, quello vabbè. Sì, ma è normale, ma perché lasciano i campioni? Esatto, di solito sono. Ma lasciano i campioni e gli fanno spingere il medicinale. Vabbè, quello che fanno gli infarelli. Cioè. Perché il medico ti dovrebbe dire: il principio attivo di questo farmaco è questo. C'ho sto campione, provalo. Se ti fa bene, vai in farmacia. No, anche perché ormai nelle ricette, in tutte le ricette messe elettronicamente, c'è il nome della molecola e tra parentesi il nome commerciale. Quindi. Che per noi sono illeggibili entrambi, perché scritti dal dottore. No, è da Marco, ho capito, tu sei rimasto al fax. I medici ormai non le scrivono più, esatto, a mano le ricette. Ma guarda, è vero, c'è questa cosa del corso. Vabbè, quelle bianche, quelle bianche. Tutto elettronico, esatto. Vabbè, quelle bianche. Quelle bianche ancora, io ce l'ho un paio di poi sono quelle su cui fanno speculazione. Beh, comunque, ragazzi, veramente pare medicina 33. Io oggi la pagina, perché. No, era così, giusto. Una. Per dire che non è una leggenda metropolitana, quella della grafia dei medici. Io. Dopo 45 anni non riesco a capire quello che scrive mio padre in corsivo. Cioè, tipo mi sono fatto un'idea che secondo me nel corso di laurea di medicina ti insegnano a scrivere in quel modo. Secondo me sì. Cioè, a me non me lo leva da. Cioè, non è possibile che i dottori scrivono tutti così de merda. Cioè, non è possibile. Secondo me. Ma che poi io non capisco, ma tutta sta fretta. Cioè, non è che dice sono stenografi se devono sbrigare. Io. Secondo me. Secondo me no, io c'ho un'altra teoria che è più subdole stronza. Sì. Secondo me scrivono male, così se te danno il farmaco e muori. Io ho scritto un'altra cosa che non lo vedi. No, io non riesco a capire perché io. Ci andavo con la ricetta al farmacista con una ricetta dove io non capivo niente. E il farmacista capiva. E quello lo capiva subito. Oppure altra teoria, in realtà il dottore non sa. Secondo un me cazzo. No, ma cioè scrive a casaccio e poi il farmacista in realtà che ti fa. È lui quello che dà. Se te guarda in faccia, secondo me questo c'ha bisogno. Secondo me è la massoneria, c'è la massoneria farmacista medico. Comunque Puccio, ci volevamo dire una cosa, almeno sai, così voglio dire, a 45 anni è tempo che sappia la verità. L'abbiamo letto noi il testamento di tuo padre, ha lasciato tutto a tua sorella, quindi ha fatto bene. Però l'ha scritto in quel modo, non si capisce niente. Quindi io comunque potrebbe essere impugnato. Esatto, io lo impugnerei comunque. Insomma, comunque, ragazzi, vabbè, tanto non penso che nessuno che conosce la mia famiglia stia ascoltando la trasmissione. C'è stato un momento. Poi lo mandiamo noi. Scusa, Puccio, io oramai ti conosco da 7 anni, 8 anni. Sì, cioè, esatto. Non hai mai lesinato il parlare della tua famiglia. Sì, infatti, informazioni assolutamente. No, c'è stato questo momento meraviglioso della mia vita in cui mio padre voleva diseredare mia sorella. È stato l'unico idea. Poi gliel'ho spiegato gli avvocati che non è che è proprio così, infatti sì. temo proprio di no. C'è stato questo momento in cui vieni dall'avvocato che ti devo intestare, no papà, non vengo da nessuna parte. A meno che non, a meno che però deve essere un lavoro metodico, piano piano comincia a mettere le goccine nel cibo di tua sorella, a un certo punto la fa internare, però ci vuole tempo. No, vabbè, adesso si è fatta volere bene di nuovo, okay. C'è un fidanzato incensurato. Questa è cosa incredibile. Aiuta tanto, vero? Allora, ma questo ragazzo Elio, che Elio, se capita che ascolti, ti voglio bene, perché so porto mia sorella. Proprio, qui fra un po' arriva il garante e ci vanno tutti al gabbio comunque. No, vabbè, che è stato accolto in famiglia con, da, dai parenti, che gli hanno detto: ma tu sei certo di quello che stai facendo? Sì, ci hai pensato bene. E quindi, vabbè, vabbè. Siamo molto contenti di questa cosa. Che cosa dicono sui social, caro Walter? Della storia d'amore tra la sorella di Puccio ed Elio? No, sì, ma sì. Anche se secondo me se cerchi bene. Ragazzi, oggi allora, tutta la, è da una settimana che su Twitter tiene banco solo un argomento e sapete bene qual è, perché ne parlo tutte le sere alle orazioni, che sono due cialtroni che litigano. Esatto, che poi continuano. Sì, sì, non si fermano più. Se ne stanno, stanno veramente a stracci. Quello dopo ti passo la parola. Però oggi c'è stato un altro piccolo evento che ha smosso i social, perché a Genova hanno sequestrato un carico di barattoletti di, chiamiamola, salsa al pesto, che arrivavano dagli Stati Uniti d'America, perché recavano un'etichetta fuorviante generica. Ora, la cosa divertente è che questo pesto prodotto generico, che non era esattamente pesto e non era esattamente doc, era però prodotto negli Stati Uniti per il mercato statunitense, per la Costco, che è una catena di supermercati che però che è praticamente anche la versione maschile della Costco. Quasi, no, la Costco è una catena grande di supermercati alimentari americani che ha delle sedi anche in alcuni paesi d'Europa, non in Italia. Ora, il punto è che questo prodotto è realizzato da una consociata, o meglio esattamente è realizzato negli Stati Uniti da Giovanni Rana. E quindi apriti cielo, e tutt'oggi, ah, il pesto Giovanni Rana è fatto in America! Non è, ah, cioè, poi l'hanno pure sequestrato. No, è un prodotto con un altro marchio, con un'altra etichetta, che reca informazioni fuorvianti sul fatto che quello sia pesto, perché contiene come tutti i prodotti americani. Esatto, però c'è da dire, sì, non è bello, sì, è prodotto da un'azienda italiana, ma non per il pubblico italiano, non è un prodotto che si trova in Italia, e però è già diventato il pesto Giovanni Rana, sì, fatto in America. Ma chi ci sta a fare in Italia sto prodotto? Perché è arrivato agli Stati Uniti al porto di Genova, dove poi sarebbe dovuto essere smistato nei punti vendita europei di Costco, soltanto che la Guardia di Finanza, in asso chi per loro, hanno contestato l'etichetta non veritiera, perché descriveva questo prodotto come doc. Cioè, gli hanno fatto: senta un po', venga un po' un attimo. Venga, esatto. E quindi questo, tutte queste tonnellate, questo è generico, di, è pure fatto male. Di, esatto, di pesto, sono state bloccate alla dogana a Genova. E ovviamente la questione è saltata agli onori delle cronache. E adesso normale, cioè, la mistificazione della notizia, una roba buona, sempre tra virgolette, per gli italiani, e quella da merda per gli americani e gli stranieri che se la mangiano con tanto gaudio. Gli americani vogliono quella merda, esatto, se mangiassero quella per merda. Per loro è quello il pesto. No, ma il brutto, la mistificazione è far passare, far pensare che probabilmente quello fosse il pesto Giovanni Rana che trovi nel supermercato di Roma, ma no. Che magari farà schifo, ma non è quello. No, a me la roba Giovanni Rana, ok. In generale, tra le robe industriali, commerciali, comunque devo dire che a me la roba di Giovanni Rana non mi dispiace. La pasta fresca di Giovanni Rana è buona, è dai, buona. Pure le tortellini ripieni, tortellini sono buone. Dai, insomma, tortellini alla paprika. Anche la pasta sfoglia, ragazzi, non è male. Sì, sì, allora, no, ma tutto sommato, tutti i lavorati a base di uova di rana sono buoni. Vabbè, comunque, insomma, uova di rana. Esatto, questa uova di rana. Le famose uova di rana. Questa è l'anno che poi salutiamo intanto il signor Rana. Salutiamo il signor Giovanni. Se vuole può anche sponsorizzarci, perché noi siamo grati di far parlare di Giovanni Rana. Esatto. Guarda, io mi accontento anche dei pacchi. Parliamo anche bene, stiamo difendendo. Esatto, noi ci accontentiamo pure dei pacchi, non necessariamente dei soldi. Se ci paghi in natura, come si suol dire, va bene tutto. Questi tempi poi. E quindi, insomma, oggi un po' si discorreva di quello, e poi si discorre di quella foto tenerissima di Giorgia Meloni che si abbraccia questi due bambinetti eritrei o di cavolo, dove cavolo sono. Che tristezza. Secondo me sarà pure disinfettata dopo. Ma poi sono belli a casa loro, mortacci sua. Vabbè, quindi infatti quando li abbraccia gli dice: bravi, bravi che rimanete qua, E loro gli dicono: da grande ti vedremo a trovare. No, dovete restare qui, no, se no vi affogo. No, perché li ha guardati, ragazzi, gli abbraccia e ha detto: io non sono Montanelli. Qui è più contento, perché Non dovete avere paura. Esatto, ma... non dovete avere paura di me, non sono Montanelli, che è già questo. E qui, e insomma, le statue, i vandalismi. Le statue, i piccioni, va bene. Quindi questo, insomma, mo, ovviamente c'è qualcosa che sicuramente Puccio vorrà raccontare, che è molto succulento, però cambiamo media. Ah beh, certo, ma ci sei più tornato su Quora, caro? Sì, ogni tanto sono andato a cercare di farmi bannare di nuovo, ma questa volta con scarso successo. Ma in realtà mi sono incartato no, non è il termine esatto, sono finito in una discussione abbastanza interessante con colleghi che però vivono in altri paesi, in altre dimensioni anche. Sì, probabilmente, perché è venuto fuori che qualcuno ha parlato della moria delle piccole e medie imprese nel mondo dell'information technology in Italia da un certo anno in poi, e in realtà questa cosa sembra combaciare con il momento in cui avere gli stagisti è diventato meno conveniente, quindi c'è questo problema di fondo che si reggevano sul lavoro degli stagisti. Scusa Puccio, c'è Grogu che ti sta dicendo sì, qualcosa. C'è Grogu, sì. Mamma. No, io non vengo la mamma. Ok, beh, dormo sul divano. Ok. Come sempre, tutto sommato. No, stavo dicendo, cioè, ricordiamo sempre che nessun bambino è stato mai maltrattato a durante parte la cromo, non è mai no, stato. No, vengono maltrattati i papà. Solo quelli. Allora, stavo dicendo, sono finito in questa discussione con gente che ha portato, come dire, le proprie esperienze quando si facevano gli appalti a cascata nel mondo dell'IT, finiva che il lavoro ultra professionale lo faceva uno stagista pagato in buoni pasto, cosa che insomma adesso, fino all'altro mese era un po' più complicata, adesso pare l'abbiano resa di nuovo possibile. Beh, scusa, permetti che ti interrompo dicendo semplicemente che questo è quello che succede nel mondo del compositing video professionale, dove viene tutto subappaltato a uffici e schiere di indiani che in 50 fanno il lavoro dei mezzo americani. Sto insomma. Immaginando Vittorio Alonso con la frusta in questo momento. Sì, chi è Alonso? Vittorio Alonso, la vicepresidente con delega agli effetti speciali di Disney, che ma non solo le grandi corporation, questa è una cosa che si fa proprio a livello generale, è che loro fanno un uso talmente smodato degli effetti speciali che per fare un film gli servono 3.000 esterni, esatto. li pagano poco, li fanno lavorare cazzo. Come dei disgraziati, esatto. Quindi tutto quello che erano le maschere, adesso c'è l'intelligenza artificiale, quindi questi adesso poveri diani, tutto ChatGPT, esatto. No, adesso Midjourney, adesso è bello perché tutti i software, anche quelli più scamuffi, hanno questo sistema di scontornamento basato sull'intelligenza artificiale, che devo dire da paura, bisogna riconoscere che è da paura. Però voi pensate a quante centinaia di indiani hanno perso il lavoro per colpa di questo. Hanno perso la vita anche. Sicuramente. Gli indiani soprattutto. No, stavo dicendo, c'è stato però su TikTok questo psicodramma di tale Mario di Napoli, è un ragazzo coreano, Jun. Scusa, si sono conosciuti e trovati sui social. Puccio, scusa. Ti devo interrompere, ma Mario è il fratello di Luigi Mario? Sì, quindi hanno Mario un film Mario. In questo momento al cinema che sta andando. Ma non era il fratello di Mario Luigi? O Luigi Mario, uguale. Eh no, sono due cugini loro. Infatti Marco, secondo me sei confuso. Ma parecchio. Comunque salutiamo anche il maestro Sergio detto Piero, che questa è una citazione che in pochi coglieranno. Compreso me, naturalmente. C'è stato ad arrivare, spiegacelo. Sergio detto Piero, non avete mai letto Pancreas, trapianto del libro cuore di Giobbe Covatta? Sì. Il maestro Sergio detto Piero. Piero. Conosco il libro, ma non l'ho mai letto. Vabbè. Mi avete anche ricordato un amico cliente che si chiama Giuseppe di Giuseppe, e noi lo chiamiamo simpaticamente Pino di Pino. Che oggi insegna agli angeli a fare qualcosa, immagino. Esatto. No, sta bene. per sua fortuna. Ciao. Vabbè, ma andiamo al dunque qua. Sono mezz'ora che stai a parlare. C'è stato questo psicodramma tra la Corea e Napoli, con questo ragazzo coreano invitato a passare. Ma è una storia d'amore? Non lo so, però ci hanno fatto tipo due puntate di propaganda su sta cosa. Addirittura. Se azzecchi il tweet giusto, possiamo organizzarci. Facciamo un paio di tweet fatti bene, ci fanno tre puntate di propaganda con OGM. Perché dobbiamo studiare sopra. Alla frutta. Dobbiamo studiare sopra. No, io non li guardo più, non si sopportano più. Io ho voluto tanto bene a Diego, ma se sopportano Taggi più. Volure tanto bene assai. Taggi voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me. E ciao. Ciao. Sì, ma spiegaci cosa è successo. Ah, in pratica, in una delle social che possono capitare con TikTok, hanno fatto amicizia un signore di Napoli, Mario, e un ragazzo coreano, Jun, che una brutta storia. E quindi sono pigliato, e che voleva tanto venire in Italia, e c'è stata questa colletta social per pagargli il biglietto dalla Corea fino a Napoli. Ma Nord Corea o Sud Corea? Beh, la Nord Corea è un po' complicato. Ah, vedo difficile, dici. Sì. E quindi gli hanno pagato il biglietto, l'hanno fatto venire qui a visitare la città del sole e della pizza. E lui però pare che dopo due giorni si sia un pelo cagato il cazzo ed è andato a trovare un'altra ragazza che aveva conosciuto sempre tramite TikTok a Milano. E ovviamente essendo spariti dai social per 12 ore durante questa manovra, che per la persona media che segue queste tragedie 12 ore sono un'era geologica, la gente si è molto preoccupata, sono state lanciate delle campagne per andare a cercare questo povero coreano disperso. In realtà questo era a Milano, che stava con un'altra tipa che gli aveva pagato parte una terza persona che girava per il ristorante. Vabbè, bisogna dare la caccia a sto coreano e rimandarlo a casa sua, sto stronzo, cioè. Per ora invece pare che si fermerà un altro po', quindi non possiamo aiutarlo a casa sua. A ciulare la milanese, tra l'altro, probabilmente. Ma succede. Vabbè, guardi, invece. Michele, scusami, perché ha detto Michele? Non ho idea. Simone, ma l'intenditore? Che hai ricordato quando hai chiesto a Nord o Sud Corea, quando un dirigente con cui lavoro è stato mandato in viaggio di lavoro in Corea, io gli ho chiesto scusa Seul o Pyongyang, e lui mi guardava e non sapeva rispondere. Gli ho detto guarda che è grave se non ti hanno detto quale delle due ti stanno mandando, perché finché Seul ti vedi, ma poi si è saputo Pyongyang, cioè dopo a posteriori si è saputo, sì era Seul, perché Seul bene, ma se non è Ul benissimo. Guardi, quindi dove sei andato a mangiare ultimamente? Da nessuna parte, cioè, sono povero, non posso più mangiare niente. Io non ho preparato nulla, c'ho anche il cellulare dall'altra parte. Vabbè, però guardi, però che cazzo, cioè, almeno un minimo d'impegno, faccia adesso su TripAdvisor. Ma non c'ho cellulare, non c'ho niente. Come c'è il cellulare? Dall'altra parte, lo lascio lì là. Ma... Così è inutile, cioè senza inutile. Io sono quello che ascoltare, vi ascolto. Vabbè, Sbano, riprendi il controllo della situazione. Ma io quello che potevo dire l'ho detto. Se volete vi posso raccontare un pochino più nel dettaglio le scaramucce, però insomma è veramente drammatico, perché quello che sta succedendo nello scontro, nella querel tra Matteo Renzi e Carlo Calenda è grottesco e oltre il teatro delle maschere, perché da una parte cosa succede? Succede che Calenda a un certo punto ha perso completamente la ciabatta e quindi veramente non si sta regolando nelle sue quotidiane esternazioni. A un certo punto si è accorto anche che Renzi va a fare gli speech in paesi non esattamente democratici dell'Arabia, dove in particolar modo un capo di Stato è accusato di aver partecipato all'omicidio, non di aver partecipato, di aver commissionato, diciamo così, l'omicidio Khashoggi. Niente, fino a una settimana fa lo ignorava completamente, adesso glielo ha rinfacciato, cioè come veramente le coppie che divorziano e si cominciano a dire le cattiverie celate da una vita. Lo schema è esattamente quello. Poi fosse stata una vita, sono neanche sei mesi, insomma. Politicamente è una vita. Sì, esatto. Poi nella politica moderna, dove tutto dura il tempo di una scoreggia, dove voglio dire un governo mediamente dura 16 mesi, tu capisci. Fatto sta che se le stanno veramente a mannaddì. E la parte renziana di questo terzo polo che non si è mai unito veramente sta in tutti i modi cercando di infangare Calenda, e ci stanno in buona parte anche riuscendo grazie a Calenda, grazie al fatto che Calenda riesce, malgrado abbia un fondo di verità, perché ricordiamoci che Renzi è sempre quello che Letta stai sereno eccetera eccetera, quindi voglio dire è un maestro del buttartelo al cuore esatto. E quindi a un certo punto che Calenda se ne sia reso anche conto è anche un merito, perché vuol dire che a un certo punto ti svegli da questo torpore, no? Però ripeto, gli è completamente partito l'embolo e sta passando dalla parte del torto, perché usa argomenti in maniera un po' impropria, no? E la parte dei sostenitori renziani sta a fare il diavolo a quattro. Vabbè, comunque fra i due, no? Nel senso, non è che dice, però è divertente vedere quanto Nell'era del Twitter la politica è diventata una cosa, cioè... Vabbè, loro entrambi si sono, secondo me, definitivamente svelati per quello che sono, cioè due peracottari. Il problema grave sono quelli che per sostenere l'uno rispetto all'altro dicono che la colpa è tutta dell'altro, che quello che loro difendono invece è tutta un'altra pasta. Questo cioè, fa parte del Renzi gioco delle parti. Statista, Calenda in coglione o viceversa. Mi pare comparabili. Viene da dire che a un certo punto uno dei due, ma già da subito, avrebbe dovuto quantomeno sovrasedere, no? Nel senso, invece qui è proprio quando litigate dei primi tempi dei social, no? Che uno diceva una cosa e quelli dicevano non puzza e cominciavano a scriversi addosso uno contro l'altro. Il diritto, no? Dell'ultima parola. Ragazzi, ricordiamoci, voglio dire, che Calenda è quello che si sente sveglio. Nasciuto da lì, che ha salvato dall'uscita dal Parlamento Italia Viva. Perché se Calenda si fosse fatto i ricchi cazzi suoi, Italia Viva usciva dalle ultime elezioni politiche con l'1,5, il 2%, non superava la soglia di sbarramento e uno dei due ce l'eravamo torti. La soglia di sbagliamento. Che effetti la soglia di sbagliamento. Esatto, uno dei due ce lo saremmo torti da... Invece no. No. L'ha salvato e probabilmente gli si ciuccerà la maggior parte dei politici. Esatto, e quella è la differenza che come Renzi... Esatto, per quello dico la stupidità di Calenda, che a un certo punto... Calenda si è svegliato e ha fatto, ma non è che me la sta a mettere al cu? Ma da un paio di mesi? Tanti mesi. Invece, prima di tornare al buon Carmine, io invece volevo fare una sorta di lavoro al posto dei Gualdi, però, perché mi è venuta in mente una cosa. Sempre parliamo insomma del nostro circondario, perché a Monte Rotondo hanno aperto un ristorante di sushi. No, aspetta. L'ultima settimana. Nelle ultime due settimane hanno aperto un ristorante di sushi in particolare. Sì, media stiamo. Che è importante perché si chiama Sakura. È importante perché non è un ristorante all you can eat. Oh, finalmente il futuro. Dai. Esatto, è un ristorante di sushi reale. Che ovviamente, naturalmente, tutti i ristoranti di sushi che non sono all you can eat costano un occhio. Costano abbastanza. La catena sta pure a Bari. Esatto, costano di più. Però questo ristorante che è aperto bellamente a Monte Rotondo, senza facendo tipo così. Io ho aperto, cioè non è che un mese prima era una pizzeria al taglio, esatto, cioè non è che hanno fatto poi tutta questa gran pubblicità o roba del genere, tant'è che io ci passo e lo vedo sempre vuoto. Poi però so, dato che io ho detto a Michele un giorno passando per di là, ho detto a Michele guarda se c'è il menù di fuori dammi un'occhiata, il menù di fuori non c'è, e io lì già mi sono sospettito, perché di solito comunque in teoria per legge ce lo dovresti mettere il menù di fuori. Mi sono sospettito, sono andato su internet, mi sono documentato. E raga, questi stanno fuori col baiocco. Secondo me hanno aperto nel posto sbagliato questi. Perché non lo so, io so solo che qualche giorno fa. Cioè, un poché 20 euro. Basse, ma. Capito? Oppure 5 bocconcini di pollo 17 euro. Oppure, che so, i nigiri, cioè 20 euro, 25 euro. Dei prezzi. Che per carità, poi magari la roba è sicuramente buona, no? Però in un posto dove la gente è abituata, sbagliando, a mangiare sushi all'all you can eat, perché comunque è sbagliato anche quello, cioè tu dovevi fare una via di mezzo, cioè comunque fare delle offerte, dei pacchetti, oppure che ne so, un mini menu dove tu te prendevi un po' di quelle cose e c'avevi un prezzo abbordabile. Ma se io vado là a mangiare e mi ordino tre cose Michela, quindi non sta a parlare di all you can eat, proprio, cioè non esci che non hai speso 70-80 euro, forse anche di più. Allora io stavo a cercare le recensioni, ma non esiste ancora. Non esiste recensione. Per recensione no, non esiste proprio, cioè su Google ancora. Allora, non creiamo noi, esatto. Subito a crearlo. Ok. Ci mettiamo una ci mettiamo subito una recensione. Si fa. Esatto, cioè, Renzo, non ci sono mai stato, ma è caro una stella, giustamente. E vabbè, tu non l'avevi visto? Allora, è successa questa cosa strana mercoledì scorso, di ritorno da una visita al commercialista con tutti i soci, perché c'era il consiglio di amministrazione per il bilancio. Dice: vabbè, dai, ragazzi, andiamoci a mangiare una cosa. Andiamo a provare il sushi nuovo che sta in passeggiata. Siamo arrivati e abbiamo trovato chiuso. Evidentemente è stata la nostra salvezza. Tant'è che poi siamo andati a mangiare al ristorante cinese in Piazza della Libertà. Esatto. Poi hai trovato chiuso, fatti una domanda e datti una risposta. Perché io comunque l'ho visto sempre abbastanza vuoto. Ma. Ragazzi, sì, ma erano le 2 del pomeriggio, mica le 4. Lo so, no, nel era senso... pieno. A che abbiamo pensato? O aveva chiuso. O non aveva ancora aperto, e magari. Oppure quello era il giorno di chiusura. Non lo so. Forse è aperto. Cioè, forse non è ancora aperto ufficialmente. No, è aperto. Dai, allora, è stato già. Sì, possiamo prenotare, poi non andarci. Però. Chi è il Tatsumi Fujinami? Tu sei Marco Caillo, ricordiamo che tu sei Marco Caillo. Tatsumi Fujinami. Non lo so. Quindi è una catena, Puccio. Pure a Bari costa così ma tanto. Ma non lo so se è una catena, perché Sakura è un nome talmente banale. Cioè, magari. Sì, però Sakura Sushi l'avevo già sentito pure io. Mi sa che c'è pure a Roma. Catena è un franchising. Sì, vabbè, comunque sì. Ovviamente vendono il marchio. Sì, perché Sakura Sushi l'avevo sentito pure io a Roma. Quindi qualcuno ci ha guadagnato da questa. Anche se per pochi mesi qualcuno ci ha guadagnato. Sì, quelli del franchising. Però tondo. Però vedi, sì, in effetti sta segnalato tra quelli della catena. Ci sono le recensioni. Metticela no. Subito, una stella e caro. Allora, metticela tu, una stella. Ma io sto qui, io sto in Puglia, ma metto una Pudignano, ma metto una stella perché mi hanno detto che è caro. No, che ne sai, che mi hanno aperto un ristorante di sushi pure a Pudignano, di un'altra catena che si chiama Nagoya. Ndogoyogoyo, quelli so i meglio, cioè nel senso, la prossima volta veniamo a Pudignano, quindi prima qualcuno mi deve mangiare sti cazzo di spaghetti all'assassina. Porca puttana, sì, quello possiamo risolvere internamente. Che cazzo, insomma, scusate. E poi vado a mangiare sushi. Invece Sbano mi diceva che cucina fusion proprio. Hanno aperto un altro sushi pure, all'Arca di Capena. Sembrerebbe per l'ennesima, sì, qua stiamo proprio a lì, poi è una guerra. Radio locale. No, sì, ma poi lì è una guerra perché, praticamente. Esatto, sì, secondo me si sparano. Hanno messo i cartelloni in tutto, però fanno so. Catanate, semmai. Ah, già è vero. No, quello succedeva solo in quel ristorante di Berlino. Allora, siccome sono cinesi in realtà, non sono giapponesi, usano direttamente la polvere da sparo, si fanno saltare. No, secondo me, però sarebbe bello vedere una bella sfida di arti marziali tra le arti marziane. Tra cuochi finti giapponesi, ovviamente, perché sono generici dei giapponesi, cinesi, diciamo, so così, e vedere che succede. E poi chi vince, tutti a mangiare da chi vince. Bello! Perché quello che perde diventa il pasto. Esatto, insomma, vabbè. E niente, quindi Puccio, dai, dacci tu un'altra botta e poi sarà una secca, però Puccio, stroncaci, perché veramente no, proprio direttamente dietro le Quora, sennò te vado a prendere io le mail di Quora, No, in realtà Quora, vi ripeto, sarà che è finito il programma partner, quindi stanno postando molte meno stronzate. Che cos'è il programma partner? Sì, cioè? Quora ti pagava i content creator che avevano più successo. Ma se l'avessi saputo, sarei stato tutto il giorno a scrivere puttanate. No, vabbè, ma ruba tipo. Io lo faccio gratis. Hai capito? Cioè. TikTok paga molto meglio da quello che ho letto. Però sì, però TikTok ti sospendono l'account come niente fosse proprio. Cioè. Come ti posso dimostrare, come dimostra la mia esistenza anche su Quora. Quindi, vabbè, sì, certo, vabbè. Però vabbè, tu su Quora non sei un content creator, sei un cagacazzi che creator. Ma quando mi muovo, come ti posso dire, nel mio ambito, sono anche vedo che ho riscontri positivi. E quando mi girano i coglioni che ho scoperto, ma è come il film di Sorrentino, ho scoperto di non avere più il tempo per le cose che non mi piacciono, quindi li mando a fanculo. Qui siamo sull'altra filosofia, proprio. Sì, sì, no. Sai, aggiungi me. Come parlando di social, c'è stato questo post social, credo su Facebook, di Luca Argentiero che ha scritto che è arrivato a 45 anni e si sente un rottame perché ha un po' di pancia, perché gli sono venuti i capelli bianchi e le rughe. Caro Luca, ti capisco. Arrivaci a 45 anni che i capelli, stronzo. Dilettante. Io ci sono arrivato, la cosa non era scontata, perché tipo mio padre e mio zio sono tutti calvi e quindi fatti una domanda, dovresti parlare con tua madre, sì. Fatti una domanda. No, ma difatti io somiglio molto più a mia madre che a mio padre, per fortuna di mia madre probabilmente. Intanto Lecce e Sampdoria stanno 1-1, così eventualmente adesso interessa a qualcuno. Lecce e Sampdoria. E chi se ne frega Lecce, cioè. Dobbiamo stare d'accordo ai giallorossi, come potrebbe dire Simone. In realtà su Quora veramente non sta succedendo una minchia, perché è morto il programma partner, quindi no. Dicevamo prima, oddio, come posta meno gente, hai riavvolto il nastro, meno gente, probabilmente si sta è vero. Aria Bertolucci. Per certi versi è un bene, perché alla fine sta postando solo chi c'ha qualcosa da dire. Il problema è che, essendo venute meno le cazzate, diventa meno divertente da seguire dal nostro punto di vista. Cioè, tipo la discussione dove sono state dette più cazzate a cui ho assistito è una in cui hanno chiesto perché non eleggiamo i giudici in Italia come nel sistema anglosassone, ed è dovuta intervenire gente a spiegare che non è che eleggono i giudici, è un po' più complicato di così. Cioè, non è che puoi prendere il salumaiere sotto casa e candidarlo a diventare giudice. Ah, no? Il presidente parlamentare sì, giudice no, guarda che mondo. Allora, innanzitutto attenzione, vi devo interrompere dal Cibali e ringraziare Cristian Spaccavaniccia per i 15 euro di donazione, forza Runtime, sta un po' di provocazione sto messaggio, e ringraziamo anche Pietro Confalone che ci ha mandato 30 euro, una birretta per voi. Me coglioni sta birretta, grazie. Da litro. Grazie. Proprio questo mese che stavamo veramente with the patches in the bottle. Yes. Ringraziamo Spreaker. Grazie Spreaker sempre, ma comunque grazie veramente. Sono molto commosso oggi, poi veramente sono arrivati pam pam, perché vedevo scorrevo le notifiche del telefono e vedevo PayPal, no? Eccola, ma non sono a debiti, sono a crediti. Esatto. Ho pensato la stessa identica cosa, e invece sono andato lì ed era una cosa, insomma, carina. Grazie a tutti e due. Insomma, siamo qui apposta a farvi compagnia. Allora, esatto. Guarda, ci fermiamo altri 5 minuti perché ci sentiamo in dovere di farvi compagnia altri 5 minuti, perché in realtà non abbiamo più un cazzo da dirvi. Perché Walter, perché giustamente, è finito il programma partner di cuore. Esatto. Walter, le cose che doveva dire l'ha dette. Puccio pure ha detto due o tre cose. Gualdi, cioè, io le cose che volevo dire l'ho dette. Cioè, tu riparlo dei farmaci. Quindi. Mancano i 20 minuti di Francesco. Se ci pensi, è vero, hai ragione. Poi diciamo che è vero pure che Gualdi c'ha a suo discapito, c'ha a sua discolpa. Anzi, deve dire che ha lasciato 12 ore il cellulare dentro casa mia. Quindi. Esatto. Tra l'altro, io so. So adesso posso svelare un segreto incredibile. Gualdi, la sveglia c'ha la canzone dei Rocky. No, non è dei Rocky. Voi avete idea che la canzone di Rocky in realtà è la sigla del Mandaloriano, però va bene, è quella dei Rocky. C'era la fanfara. Vabbè, uguale a quella dei Rocky, però. Quella dei Rocky, quella è proprio quella lì. Esatto. Vabbè, vabbè, secondo me era quella dei Rocky. Però è completamente diversa dalla fanfara. No. C'è un pezzo della musica dei Rocky, quella proprio, non quella classica, cioè il tema principale. È quella che lui c'ha nella testa, che è uguale. Esatto. Ma poi in realtà, no, è la versione generica della canzone dei Rocky. Che dai, falla sentire. C'ho dell'aria. C'hai dell'aria, che cazzo, serve qua. Ma non c'hai le gambe, non c'è una sedia a rotelle. Vabbè, allora vado a prendere, mi raccomando. Adesso vuoi far sentire cosa? La fanfara del Mandaloriano. E adesso la cerchiamo. Può prendere da YouTube, Pizzi, Ma sì, però ragazzi, mamma, avete ricordato che c'era un video che confrontava 4-5 canzoni, tra cui il tema di The Mandalorian, il tema di Rocky e altre tre. Ragazzi, c'è un pezzo che è uguale. Io avevo il disco di tutti e tre le colonne sonore di Rocky. Secondo me c'è un pezzo che è praticamente identico. Poi fate come cazzo vi pare, insomma. E nel frattempo, ce ne andiamo a vedere il campionato del mondo. Ah, tra l'altro c'è una cosa importante. Voi lo sapete che quest'anno è l'ultimo anno in cui FIFA si chiama FIFA. Il gioco di calcio, perché Electronic Arts ha detto basta, possiamo camminare con le nostre gambe. Si chiamerà FUFA. EA Soccer. Si chiude un'epoca, perché insomma, voglio dire, io sono cresciuto con i giochi FIFA. E quindi non ci sarà un FIFA 24. Ma ci sarà un FIFA 25? Perché se l'è comprato qualcun altro? Perché 2K, quelli che fanno il gioco dell'NBA, hanno fatto l'accordo. Quindi alla fine nel 2025 ci saranno ben 4 giochi di calcio. Perché 4? Perché ce n'è anche un altro che, vabbè, non vale un cazzo. Ma c'è Pre-Evolution ancora esiste? Cioè, non è Pre-Evolution, è EA Sport. No, PES esiste. No, PES no. No, pure loro hanno cambiato nome. Si chiama eSport. Quello dell'Electronic Arts. Sì. Quello della Konami, sì. Questo adesso della 2K, che il quarto qual è? E il quarto ce n'è un altro gol che non è, però che è un po' la mezza calcio. Tipo, esatto. Io poi ci divertivo. Esatto. PC calcio. No, però aspetta, PC calcio era più tipo Football Manager. Ah, una via di mezzo. Poi sì, se volevi ti giocavi la partita tu e se ne fregava. Poi dobbiamo considerare pure i vari Football Manager, che ci sono anche lì due o tre tipi diversi. Insomma, quindi vabbè, dai. Finita un'epoca, devo dire, frega un cazzo. Però un po' fa effetto quando ci sono questi cambi epocali, perché insomma FIFA ed Electronic Arts erano, io mi ricordo che comprai il 3DO, ragazzi, proprio perché c'era il primo FIFA completamente in 3D, è stato il primo quello. Cioè per 800.000 lire per 800.000 lire per giocare a FIFA, FIFA bravo, 96 detto, è stato anche perché primo, poi il primo in 3D, perché il primo in assoluto era solo FIFA International Soccer, che era in assonometrico, e poi nel dal 96 in poi tutti in gli anni cos'era in assonometria, assonometrico, assolometrico, isometrico, era isometrico, assolometrico. Comunque mi ricordo questa cosa, che presi sto 3DO, lo portai a casa, lo attaccai allo stereo, attaccai al televisore, perché mi dicevano, cioè, sul CD di FIFA c'era scritto Dolby Surround, che cazzo è il Dolby Surround? No, però l'attaccava allo stereo e parte questa cosa, EA Sports, it's in the game, e poi tutto lo stadio che roteava, cose, immagini incredibili fatte tutte in motion JPEG, e poi il gioco, vabbè dai, all'epoca era anche stupito, dai, comunque il 3DO era figo, ragazzi, poi dopo era troppo comunista per sopravvivere in un mondo capitalista come quello del videogioco. Io saluto e ringrazio Marco Gualdi. Ciao, ah no, io sono la versione generica di Marco. Tu sei, quindi sei? Il generico. Sono il Gualdo Marco. Sono Marco Gaillo. Gaillo, ok. Sei un po' Gaillo, Marco, ci stai dicendo? O sei Margaldi, No, Marco Gaillo. Ok, saluto e ringrazio anche Walter Sbano. Ciao. Saluto e ringrazio anche Carmine, anche detto Puccio, ma soprattutto Console. Il generico. Il generico. Ciao, pure tu sei generico. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao ragazzi.